il 21 di novembre ho terminato il mio contratto, la ditta chiudeva. Sono rimasta senza lavoro a 50 anni. Io dopo una vita, 20 anni da imprenditore, 10 anni da dipendente, ho cominciato, devo dire, a mandare curriculum a pioggia. Onestamente nessuno mi si è affidato. Eccoci qua, buongiorno. Non a caso nel nostro fuori onda abbiamo ripescato in apertura queste due testimonianze, quella di Paola e di Susanna, due ascoltatrici che la scorsa settimana hanno chiamato in diretta per raccontarci la loro esperienza di donne alle prese con il mondo del lavoro. Oggi torniamo a parlare allora di questa prima emergenza nazionale, di cui parla ampiamente anche un'intervista al ministro del lavoro Poletti quest'oggi sulle pagine della Stampa. L'emergenza nazionale è quella della disoccupazione. In trasmissioni precedenti ci siamo occupati, lo ricorderete, di giovani e poi degli over 50. E invece questa volta è arrivato il nostro momento. La puntata è dedicata infatti a noi donne, all'altra metà del cielo, le donne che come gli uomini cercano opportunità professionali, ma che a volte rispetto agli uomini trovano, direi, qualche difficoltà in più. In Italia infatti il tasso di occupazione femminile rimane molto indietro rispetto al resto d'Europa per fattori economici, legislativi, culturali, e anche Christine Lagarde ci ha bacchettato e senza mezzi termini ha ricordato che siamo uno dei paesi della zona euro che incoraggiano meno la partecipazione femminile. Il tasso di occupazione femminile è del 47% e quel che è peggio è che il divario italiano sta aumentando. Eppure nella grande difficoltà del mercato del lavoro italiano le donne riescono, seppur timidamente, ad andare in controtendenza. L'occupazione femminile resiste meglio alla crisi rispetto a quella maschile in Italia come nei principali paesi europei. Buongiorno a Carlo Bassi, amministratore delegato di Back to Work 24. Buongiorno a voi, grazie. Torna ancora a Cuore Denari. Grazie. L'idea di dedicare una puntata alle donne ci è venuta proprio con lei la scorsa settimana. Con lei, con tu, adesso qua cominciamo con la te, battaglia a darci del tu, del lei. Dai, vabbè, Carlo. Perché proprio Carlo ci diceva che Back to Work 24 riceve pochi curricula di donne, ma quei pochi sono di un livello molto elevato. Ci confermi questa tendenza? Sì, intanto credo sia opportuno ricordare che Back to Work 24 non si occupa di occupazione, sì, si occupa di proporre a manager, a persone che hanno difficoltà a continuare l'attività professionale giunto a una certa maturità, a reinventarsi come imprenditore, sì, con piccoli investimenti. Questo è doveroso, sì, dirlo, perché altrimenti sviamo. È vero, poche, anche perché di fatto poi invece vediamo che la determinazione a intraprendere invece è molto più diffusa secondo me nelle donne, però ad oggi abbiamo poche risposte. Non so dirvi esattamente perché. I curriculum però sono decisamente molto più qualificati e molto più sostanziosi di quelli che riceviamo in percentuale rispetto agli uomini. Senti Carlo, allora fai un appello, se tu dovessi rivolgerti alle donne che stanno ascoltando, e sono tante, sì, noi siamo molto fiere di questo, le donne che ascoltano Cuore Denari, quale stimolo daresti? Anche magari per vincere quel timore, quella ritrosia, quella cosa di dire, beh, forse non è adatto a me. Ma guarda, una delle cose che mi sta sorprendendo quando vedo le donne che vengono a candidarsi a Back to Work, che non vengono da sole, vengono già avendo trovato dei partner femminili, quindi delle altre compagne di avventura, sì, con cui fare intrapresa, perché credo che questo le porti a essere molto più portate non impresa ma intrapresa. Intrapresa, sì, molto bello, perché siamo intraprendenti, certo. No, ho coniato tra l'altro un qualcosa che gira nell'aria, ma così si passa dal lavoro dipendente a quello intraprendente, al di là che poi si faccia, brava, vedi, si che faccia allora in, avevo sì, ma non è solo mia, non è mia, è di, non mi ricordo più l'ospite adesso dell'altra volta, di Walter Passerini. Walter Passerini, il concetto è tenuto nel suo libro, ma io l'ho preso perché è il concetto su cui si basa Back to Work. Alla fine si può anche essere intraprendenti e fare impresa con se stessi, non è necessario farlo costituendo la SRL, l'importante è avere una mentalità, e le donne in questo senso, anche se poca percentuale quelle da Back to Work oggi, lo hanno molto di più, e aggiungo, hanno già una mentalità di compartecipazione all'intrapresa, mentre negli uomini, ma sto facendo banalissima psicologia, c'è molto più individualismo in questo senso, secondo me. Allora, dopo magari faremo così. Se non lo stai dicendo perché sei in uno studio di un harem, direi stamattina. Più che uno studio, un harem, direi stamattina. 800 24 00 24, allora il numero verde, acchiappate la cornetta, siete donne, state cercando il lavoro. state appunto impegnandovi in questo cammino che è particolarmente complesso in questo momento. Diteci se avete esperienza oppure siete al primo impiego. State cercando perché volete cambiare per migliorare la vostra posizione lavorativa o perché siete state costrette a farlo? Di solito non si chiede l'età, le signore, giusto Nicoletta? Anche assolutamente. Se noi la denunciamo sempre la nostra senza alcun problema, ma in questo caso è lecito. Diteci quanti anni avete e qual è l'aiuto che vi manca per fare centro. Oggi cercheremo di darvi tutti i migliori suggerimenti per ricandidarvi al meglio. Raccontateci quali sono le professionalità, le vostre doti, le vostre qualità che mettete in campo. Emotiva, è solo un modo per dire io non voglio assumere una donna. Sì, esatto, sono così anche al mio studio. Si aspettano che io pianga sulle pratiche. E tu hai mai pianto sulle pratiche? Certo, ma sono in segreto nel mio ufficio. Io una volta ho pianto alla galleria, una volta in 10 anni. E da allora dicono, no per favore non fate piangere Charlotte. Io non piango mai al lavoro. Se al lavoro un uomo si arrabbia, alle palle, una donna è emotiva. Eccoci qui, allora noi oggi invitiamo le nostre ascoltatrici a chiamarci all'800 24 00 24. Se siete una donna che ha appena concluso un ciclo di studi, oppure una donna che cerca una nuova opportunità, una donna che ha perso il lavoro, una donna che vuole o barra deve reinventarsi. E salutiamo Cristina Gianotti, ingegnere del lavoro, che è qui in studio con noi. Buongiorno. Buongiorno. Il suo lavoro consiste nel supportare la persona che vuole lavorare su se stessa per cambiare, migliorare nel lavoro, sia esso dipendente, direttivo, imprenditoriale. In fondo anche lei, dottoressa Gianotti, si è inventato un lavoro. 30 anni fa una figura come la sua non esisteva, o come si dice non avrebbe avuto mercato. Credo che la sua esperienza potrebbe già fornire buoni spunti e rincuorare chi ci sta ascoltando. È vero, io sono un caso di donna lavoratrice che si è reinventata. Sono un ingegnere, ma da una decina d'anni faccio il cosiddetto business coach, che è quello che Nicoletta ha descritto brevemente. Dopo una prima carriera piuttosto lunga, ventennale, sì, di tipo manageriale. Come è successa, diciamo, questa evoluzione? In realtà si sono mischiati una serie di fattori. Da una parte ero soddisfatta di quanto, diciamo, avevo ottenuto fino a quel momento. Avevo voglia di cose nuove, volevo rendermi utile e restituire, diciamo, alla società quello che avevo accumulato. Il settore in cui lavoravo era in profonda trasformazione. Sono di natura curiosa e quindi mi piace, diciamo, essere attenta a quello che succede nel mondo. Avevo delle condizioni al contorno favorevoli dal punto di vista, diciamo, finanziario, familiare e anche di salute, e l'apertura mentale che va a braccetto con la curiosità. L'idea l'ho avuta banalmente leggendo, sì, un articolo su un magazine del Corriere della Sera, Io Donna, che è tuttora, diciamo, in edicola, che presentava una coach americana che aiutava i manager. Da questo banale, diciamo, foglio di carta ho incominciato a documentarmi, ho preso, diciamo, i libri di questa coach americana, ho cercato una scuola in Italia e anche negli Stati Uniti, ho parlato con le scuole di coaching in Italia, ho parlato con delle persone che facevano già un'attività di questo tipo, erano gli inizi degli anni 2000, e ho incominciato, diciamo, con una scuola, quindi mi sono rimessa a studiare dopo i 40 anni con un master che è durato, diciamo, una serie di mesi, ovviamente con un impegno solo limitato nel sabato e nella domenica. Per arrivare poi all'attività ho attraversato una fase di caos in, certo, cui il vecchio e il nuovo si mescolavano, e poi, diciamo, finalmente ho trovato, diciamo, una strada e la sto, diciamo, consolidando. Questo vale anche per gli altri, perché effettivamente, diciamo, in Italia ci sono alcuni settori, alcune professioni che sono decisamente in contrazione o che stanno, diciamo, proprio emigrando e delocalizzandosi rispetto, diciamo, al nostro paese, e altre si stanno imponendo. Faccio due brevissimi esempi. Da una parte ci sono le telecomunicazioni e soprattutto la ricerca e sviluppo nell'ambito delle telecomunicazioni, dove noi abbiamo una buonissima, diciamo, preparazione che viene sia dall'università sia poi, diciamo, dalle aziende che erano presenti in Italia, che però adesso stanno uscendo dall'Italia e anche dall'Europa. Nel mondo digitale invece possiamo ancora, diciamo, fare qualcosa in Italia, sia in termini proprio di sviluppo sia di applicazione al business, e qui cito, diciamo, l'e-commerce, che finalmente anche in Italia sta presentando dei tassi di crescita molto significativi e che interessano tutti. Carlo, sei d'accordo? Sono d'accordo, anche mi verrebbe da aggiungere però un aspetto. Questi sono settori sicuramente al centro dell'attenzione, però se oggi dovessi invitare le donne, ma anche i colleghi uomini over 50, ragionerei anche su concentrarsi su attività che nel concetto quotidiano si pensano vecchie. Sì. Non voglio fare l'elegia dell'artigianalità, ma ci sono attività che potrebbero farci diventare imprenditori e manager nel gestire in modo moderno, evoluto, così anche attività più tradizionali, le classiche attività manufatturiere. E non si tratta solo dell'adozione delle pecore, come è venuto fuori nella settimana scorsa, che comunque chiaramente anche nell'agricoltura in realtà la tecnologia si può assolutamente utilizzare. Si può portare, ma anche la competenza evoluta di chi ha fatto esperienza in una multinazionale, se applicata a un'impresa, voglio dire, che produce biciclette, mi invento, cioè dico la cosa non tanto per dire, oppure di chi fa cultura. Noi abbiamo dei ragazzi che mi hanno sorpreso, hanno qui vicino Bergamo, vogliono riconvertire il proprio allevamento dove producevano latte in prodotti di Made in Italy da esportare all'estero, e sono venuti a cercare da noi l'export manager. Voi capite che l'export manager di una multinazionale, che si trova sicuramente a entrare la mattina in un allevamento, probabilmente potrebbe avere qualche dissociazione, ma quello è il futuro, quello è il futuro. È inutile applicarlo solo pensando che bisogna farlo solo per l'ennesima startup di app o di web, perché sennò rischiamo di limitarci tutti. Allora, se volete guardare il vostro futuro insieme a noi e soprattutto entrarci, 800 24 0024. Dottoressa Gianotti, Lagarde, dicevamo, ci bacchettava per il divario che c'è in Italia tra occupazione maschile e femminile. Noi non lo ridurremo certamente oggi con questa puntata, ma ci impegneremo a dare indicazioni e soprattutto a trovare soluzioni per le donne che ci stanno ascoltando e che stanno cercando un lavoro, il primo lavoro, perché vogliono cambiarlo, vogliono ritornare nel lavoro. Iniziamo allora a cercarlo insieme concretamente. Mi piacerebbe fare nostra la filosofia di un proverbio giapponese che ho letto sul suo profilo, che dice così: la visione senza azione è sogno, l'azione senza visione è un incubo. Mi è piaciuta molto, tradotta in pratica, andiamo allora. Certo, anche a me piace moltissimo, e magari adesso, diciamo, la traduciamo in parole semplici e l'applichiamo alla ricerca del lavoro, proprio facendo anche riferimento all'esempio delle due signore che abbiamo ripreso proprio all'inizio della puntata. Allora, rispondere a raffica agli annunci di lavoro, più o meno centrati, con un CV unico e scarno, un CV che va bene per tutte le stagioni, per paura di perdere tempo nell'impostare la ricerca, è un incubo. D'altra parte, diciamo, scrivere 5 CV con impostazioni leggermente diverse, fare una ricerca di mercato non estesa soltanto all'Italia ma anche a altri 2 o 3 paesi, raccogliere liste di società di ricerca e selezione di aziende, non passare mai al confronto diretto con il mercato, cioè all'azione, magari per paura del no, è un sogno, nel senso negativo, cioè non produrrà mai un risultato. La via di mezzo è dedicare il giusto tempo a una fase di preparazione, quindi individuare chi sono e cosa so fare, individuare alcuni tipi di lavoro e mercati in cui posso portare la mia competenza, approntare CV, lettere di marketing, colloquio, target di aziende o di società di ricerca e selezione, e poi iniziare a approcciare il mercato, e qui utilizzare vari canali, quindi rispondere agli annunci, proporsi direttamente alle aziende in cui vorrei o potrei lavorare, contattare ex capi, colleghi per verificare le opportunità nell'azienda in cui loro prestano la loro opera attualmente, oppure cercare contatti per propormi ad altre persone in altre aziende, farsi dare anche dei suggerimenti o dei feedback, iniziare insomma a capire in concreto che cosa funziona e non funziona per me, affrontare il fallimento, mettere a punto, migliorare e arrivare, diciamo, quindi al risultato. Insomma, come per dire che cercare il lavoro è un vero lavoro. Carlo. è un vero lavoro che va fatto analiticamente e strategicamente. A tal proposito dico anche, allargate i confini, scendete anche al di sotto di certe dimensioni che teoricamente per vostra abitudine storica non prendevate in considerazione. Io do dei dati, in Italia ci sono 3.700.000 piccole imprese, non tutte possono rimanere piccole, hanno bisogno delle vostre competenze. Magari non entrerete con l'auto aziendale e le cose, però l'opportunità di lavoro è interessante, che si faccia come imprenditore o come manager, e hanno bisogno di molta competenza. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Sono pronte Letizia dalla provincia di Foggia, Giuseppe dalla provincia di Padova, è pronto anche un altro ospite che vi presento fra un attimo, ma vorrei leggere il messaggio di Silvia da Pisa che dice: lavoro come dipendente da 20 anni, non sopporto più il mio lavoro, perché qui abbiamo anche delle situazioni in cui qualcuno per fortuna il lavoro ancora ce l'ha, ma può vivere una condizione ormai di insostenibilità per tanti motivi. Avrei la possibilità di mollare tutto e ripartire da zero costruendo un agricamper vicino al mare, ma a 46 anni sarebbe un salto nel buio. Resterà solo un sogno? Salto nel mare. Sarebbe un errore non farlo. Esatto, per noi è un salto. No, ma infatti vedi che approccio. Per noi sarebbe un salto nel mare, per lei un salto nel buio. Ha paura, ma come superare queste paure? Volete dare dei suggerimenti? Carlo Bassi. Posso dire che per risolvere la paura bisogna continuare a pensare a quello dove si è, alla situazione in cui si è, pensare di moltiplicarla per i prossimi 20 anni. Se vuole arrivare alla pensione nello stato di angoscia dove si trova adesso, è una scelta, ma poi non se ne lamenti. Se vuole provare a tentare di interrompere quell'incubo in cui si trova, pensando anche che se gli va male ha comunque delle risorse, delle energie, una forza, una competenza, per cui senza stipendio troppo a lungo comunque non ci rimarrà, ma è sempre il rischio, è sempre quello di rimanere ancorati a qualsiasi condizione attuale che impedisce alle persone, agli uomini, di intraprendere il mare. La certezza nostra, anche se sgradevole, vale tanto quanto la qualità di una vita migliore possibile l'indomani. Dottoressa Gianotti, lei ha un suggerimento per la nostra ascoltatrice? Allora, siccome diciamo Silvia mi è abbastanza diciamo simile, nel senso che anche lei ha fatto una carriera di 20 anni in un certo diciamo ambiente, settore, e adesso diciamo ha voglia di qualcosa di diverso. Posso però aggiungere solo una cosa: il momento storico era diverso, magari 10 anni fa forse non si avevano le difficoltà sul mercato del lavoro che si hanno adesso. Sì, questo diciamo però è relativo, nel senso che alla fine noi dobbiamo vivere la vita che ci è data, e quindi l'Ottocento era difficile, il Novecento altrettanto, diciamo gli anni 2000, insomma noi dobbiamo vivere la nostra vita. Io avevo fatto una considerazione di questo tipo e che a volte diciamo ripropongo a donne appunto diciamo della nostra età. Allora, avviene un momento in cui uno deve pensare un pochino a cosa ci sta a fare nella vita, e quindi se magari diciamo i primi 20 anni uno ha fatto quello che doveva fare per i genitori, per gli studi, per il marito, per quelle che erano anche un pochino diciamo le costrizioni sociali, insomma doveva dimostrare qualcosa agli altri. Dopo i 40, 45, 50 uno deve dimostrare qualcosa a se stesso e dare un senso diciamo completo alla propria vita. Quindi magari sarà anche una piccola cosa, però diciamo farà qualcosa per cui diciamo a 80 anni sarà contento di avere dato anche quel piccolo contributo. Certo, bisogna diciamo considerare bene quello a cui si va incontro, però poi anche diciamo buttarsi. Del resto diciamo tutti si buttano, non è che c'è uno che nasce con l'imprinting di imprenditore, uno che nasce con l'imprinting di impiegato per tutta la vita. E Marta cominciò il pellegrinaggio presso tutte le case editrici specializzate in testi filosofici e scolastici in genere. Tanti luoghi diversi, ma la formula di congedo fu sempre la stessa. Grazie. Le faremo sapere. Ok, Stellina, ti faremo sapere. Grazie, cara. Ti faremo sapere. Arrivederci. Grazie a voi. E ci ha raggiunti, come vi avevo già anticipato qualche istante fa, Claudio Soldà, direttore Public Affairs di Adecco Italia e anche responsabile della Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, ecco, ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Tra l'altro, buongiorno. Faremo in tempo a farle una domanda, poi le chiederò un attimino di pazienza, deve sentire con noi l'andamento dei mercati finanziari. Ha qualche minuto di tempo in più, dottor Soldà? Eccoci qua. Comunque, anche perché magari ci avrebbe sentito ugualmente, vero? Certo, dottor Soldà. Certo. Voi avete il polso della richiesta da parte delle aziende, ma anche di coloro che cercano. Ci fa un punto sull'incontro tra domanda e offerta dal punto di vista femminile, in particolare, dottor Soldà, per chi cerca il primo lavoro, quali sono le criticità che si affrontano in questo momento, in questa fase? Il mercato oggi, almeno per quel che riguarda il nostro osservatorio, che pur essendo privilegiato riguarda ovviamente una fetta di popolazione di lavoratori, ci dice che uomini e donne stanno entrando attraverso il nostro canale in maniera paritaria, nel senso che abbiamo un 45% di donne e un 55% di uomini. Poi c'è, come dire, il rovescio della medaglia per capire se le donne sono arrivate attraverso questo canale dopo averne provati molti altri. Devo dire che oggi alcune realtà come il chimico farmaceutico, l'alimentare e tutte quelle realtà legate all'innovazione, quindi sto parlando delle professioni in ambito digitale, stanno richiedendo quasi in prevalenza, o meglio, stanno assorbendo quasi in prevalenza donne. Poi ci sono, come dire, altri settori particolari come ad esempio il nostro. Tenga conto che in Adecco su 1800 persone il 78% è femminile. Soldà, le chiedo un attimo di fermarsi per due cose, perché devo fare la borsa, e le chiederei anche di sistemarsi con il microfono perché la sentiamo un pochino a scatti, quindi per la seconda parte del programma vogliamo perfezionare il nostro collegamento telefonico. Che dici, Nicoletta? Certo, andiamo a sentire i mercati, certo. E poi il dottor Soldà, Letizia e Giuseppe, esatto, dalla provincia di Padova. Cuore e denari. Ero un dirigente d'azienda, mi occupavo dell'amministrazione di una piccolissima azienda. Il problema è che hai tantissime competenze, magari scorri la lista, io ci sono, alla fine devi sapere il russo oppure devi essere 25enne. State cercando? Mettiamo così, una mia dimensione nella quale a questo punto riesco a portare la pagnotta a casa o a barcamenare. Certo. Faccio praticamente in contemporanea quattro lavori. Devo dire, mi alzo la mattina e mi chiedo chi sono. Adesso è arrivato il momento. Puoi parlare. Posso parlare per dire alle nostre amiche che ci stanno seguendo, state cercando lavoro, state aggiornando il curriculum, preparando il vostro primo colloquio, oppure ne avete già fatte alcune e non siete tanto convinti di come è andata, siete insoddisfatte, chiamateci, perché i nostri esperti oggi vi daranno una mano. Tina nel frattempo ci scrive: il problema è che mentre cerchiamo questi canali le bollette continuano ad arrivare, l'affitto, il mutuo sono da pagare, il vizio del cibo non si perde. Insomma, tanto che si cerca lavoro, abbiamo detto, un lavoro si campa con tutto quello che questo comporta. Anche Marta chiede invece quanto senso abbiano le candidature spontanee, vengono prese in considerazione o cestinate? Anche qua credo che dipenda un po' dall'approccio che hanno le aziende. Chiedo allora al nostro Claudio Soldà di Adecco Italia se ci vuole dare un suggerimento a tal proposito. Quando hanno senso le candidature spontanee nei confronti delle aziende? Quando evidentemente queste aziende non trovano la professionalità che cercano e magari questa ricerca dura a lungo. Soldà. Sì, quando in genere sulle aziende, sapendo che certi profili sono richiesti con continuità, a quel punto non attendo che ci sia l'annuncio, ma mi posso proporre in maniera diretta, in maniera spontanea. Quindi insomma bisogna essere capaci anche di intercettare l'offerta, esatto, giusta da questo punto di vista, immagino. Qui diventa ancora più importante quella necessità di informazione che è alla base di tutto il percorso di avvicinamento al mercato del lavoro. Direi di cominciare ad aprire i microfoni alle nostre ascoltatrici, Nicoletta. Precedenza Letizia, certo, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno Letizia. Buongiorno. Ci dica. Allora, io sono una giovane mamma, direi. Sì. Di 37 anni, sono laureata in lettere, ma non ho mai pensato di insegnare. E adesso che i miei tre bambini sono in età scolare, tutti e tre, mi vorrei reimmettere nel mondo del lavoro. E, diciamo, io ho delle esperienze lavorative anche all'estero. E sono una creativa, nel senso che Ogni tanto mi propongo in qualche mostra perché dipingo e ho scritto un paio di lavori che sono stati vincitori di concorsi letterari, sono stati pubblicati, ma niente di che. Perché cosa, e quindi perché cosa si candiderebbe, Letizia? Perché come lei sa, i pittori magari, ecco, gli artisti da questo punto di vista forse in questo momento non hanno un grandissimo mercato. Diciamo, io ascoltavo il consiglio della dottoressa, io mi chiedo continuamente chi sono e su quale settore posso immettermi o pensare di immettermi. Mm. Ma non riesco a... Bisogna passare un po', cioè, provare a dirselo e darsi, no, concretamente muoversi. Chiediamo ai nostri esperti. Dottoressa Gianotti, sì. Allora, visto che sono stata chiamata in causa. Allora, signora, effettivamente la situazione di una donna in Italia tra i 30 e i 40 anni con tre figli non è, diciamo, una situazione facile per trovare un lavoro come dipendente in un'azienda. Non vorrei essere, diciamo, negativa, ma sono, diciamo, molto realista. Soprattutto se pensiamo magari, diciamo, a delle regioni del sud Italia, adesso senza voler fare, diciamo, la milanese, però insomma, diciamo, a parte che comunque quello che ho detto precedentemente vale, diciamo, indipendentemente dalla regione. Quindi io penserei, diciamo, in maniera creativa, da sola oppure, diciamo, con un supporto. Gruppo di donne. Dove la orientiamo, allora, concretamente, dottoressa Gianotti? Mentre la sentivo parlare mi è venuta in mente due donne, diciamo, qui a Milano, che si sono inventate un tipo di lavoro di questo tipo. Queste persone sanno molto bene l'inglese, gli piacciono, diciamo, i bambini perché sono, diciamo, delle mamme loro stesse, hanno, diciamo, elaborato e stanno, diciamo, lanciando su Milano un servizio in cui fanno giocare i bambini e anche, diciamo, le mamme, perché poi dipende, sì, appunto dalla fascia di età del bambino, parlando in inglese. Quindi, siccome lei dice so scrivere bene, so dipingere, ho lavorato, eccetera, all'estero, quindi evidentemente la padronanza con la lingua ci sarà. Sì, adesso poi bisogna vedere se è richiesto o meno, però insomma, diciamo, mentre parlava mi è venuta, diciamo, quindi questa sfruttare idea. Sfruttare un pochino, adesso non pretendo di risolvere la situazione, no, ma io con una battuta, ci mancherebbe. A Foggia sfruttare, però, il canale turistico, magari cominciare a cimentarsi in estate, le Tremiti, non so da quelle parti là che cosa può esserci. Carlo Bassi, ma non ho capito se la signora ha aspirazioni artistiche in senso ampio, perché se ha aspirazioni artistiche le regole del lavoro sono altre, e anche le regole per trovare lavoro bisogna puntare sulla propria effettiva capacità e osare su tutt'altri campi. Se invece vuole applicare una determinazione alla creatività generale, i mestieri dove la creatività, ma non fine a se stessa, non saper fare bene, avere delle belle idee, ma sapere in qualsiasi mestiere portare la creatività che lo può far vedere, può far evolvere in modo diverso. Gli esempi che sono stati appena citati sono, certo, evidenti applicazioni di un modo di concepire con creatività la propria esistenza e il mondo del lavoro e applicarlo a cose che tradizionalmente uno penserebbe in modo diverso. Sì, però un colloquio, se ti siedi davanti a un esaminatore e dire sì, sono creativa, secondo me potrebbe essere anche un autogol. A questo proposito, per preparare poi anche il curriculum, parleremo anche del colloquio di lavoro, vi ricordo che sul nostro Daily Lab trovate un post della dottoressa Gianotti che racconta come fare un curriculum vitae, che è importante e secondo me chiarisce anche le idee. Quando ci mettiamo lì, indipendentemente che sia libero o europeo, ci mettiamo lì e vediamo nero su bianco che cosa sappiamo raccontare di noi, esatto, cassando anche delle cose, cioè io sono creativo forse non basta, ma valgono le esperienze all'estero, vale il fatto che sei mamma, che dipingi, che ecco, forse concretizzare. Ieri ti ricordi c'era sui giornali anche una valorizzazione di questo aspetto e quanto conti nel curriculum ed indicarlo bene. Vale come un master in fondo il volontariato, perché indica una flessibilità, una sapersi adattare, una passione, quindi se state compilando il curriculum e avete fatto esperienze di volontariato, non dimenticatevele anche, anzi, sottolineatele. Ti volevo anche segnalare che, visto che io da qua ho il controllo della posta, da cuoredenari@radio24.it, ci sono tante ascoltatrici che ci stanno scrivendo mail un po' più articolate rispetto a quelle che possono andare all'interno di un SMS. C'è Rosanna che ha 40 anni, ci racconta che è una decoratrice, quindi anche lei è ambito artistico, ultimamente il lavoro latita, è impossibile lavorare in Italia, credo che all'estero la decorazione italiana possa avere un mercato di nicchia ancora ricercato, e quindi probabilmente ha già lei stessa dato una risposta al suo problema in questo momento. Poi c'è un'altra ascoltatrice, Rosa, poi magari ce ne occupiamo nell'altra parte del programma, che ci ha mandato il suo curriculum e quindi lo prendiamo a spunto, perché vorrebbe chiederci dove sbaglio. Ha della bella professionalità, 32 anni, alla ricerca di un lavoro, in questo momento collabora con un'impresa di costruzione, 800 euro lordi al mese con partita IVA iscritta all'albo degli architetti, quindi paga i contributi ad Inarcassa. Che cosa rimangono di questi 800 euro? Non so, praticamente nulla, ma non capisce, lei dice, che cosa sbaglio nello scrivere il mio curriculum, perché ci sembra appunto dal punto di vista professionale molto ben predisposta. Nicoletta, possiamo naturalmente chiedere a chi ci sta ascoltando, magari è un imprenditore, un piccolo artigiano o una persona che sta cercando magari figure professionali. Era già capitato, ti ricordi, Deborah? Altro che, la settimana scorsa anche un po' di incrocio l'abbiamo fatto. Ecco, allora non è che vogliamo diventare un ufficio di collocamento, ma sicuramente mettere in contatto questi due mondi che si stanno cercando e forse non si capiscono, e dobbiamo cercare di adottare un linguaggio comune, a noi farebbe molto piacere. Per cui, se cercate dei profili particolari, 800 24 00 24, aiutateci, perché anche voi, come ci sta scrivendo ad esempio un ascoltatore, diceva: io non considero mai curricula che mi arrivano via mail, li casso. Quello incomprensibile. Dice: voglio vederli vis-à-vis, ma come fa a cercare? Primo contatto, come avviene? Come avviene, infatti sarebbe curioso saperlo. Ecco, raccontateci, anche voi che siete dall'altra parte del banco, della scrivania, che cosa vi può alluzzare di una persona, che cosa cercate, e quindi dateci anche i vostri suggerimenti, ma soprattutto se cercate qualche donna in cerca di appunto nuova occupazione, noi siamo qua. Cuore e denari. Secondo uno studio recente, le donne che hanno figli piccoli non dormono mai una notte intera. I ricercatori non sono riusciti a spiegarne il motivo. Potevano chiedere a me. Ehi, taxi! Invece di dormire, faccio la lista. Primo, portare Amelia a scuola. Secondo, cercare di non farsi mettere sotto al lavoro. Non sei un po' in ritardo stamattina? Terzo, passare più tempo con Richard. Stacca morta anche stasera. Non è ancora morta. Quarto, i bambini. I dolci per l'asilo, le luci di Natale, le feste di compleanno. Ma come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? Ma come fa a far tutto? E allora 800 24 00 24, se siete delle candidate, un po' come appunto la nostra attrice del nostro brano di film, a prendervi cura della famiglia e a far tutto anche lavorando, questa mattina siamo qua per voi, per darvi anche qualche suggerimento qualora siate delle donne momentaneamente, speriamo, fuori dal mercato del lavoro, come ritornarci, naturalmente come candidarsi al meglio. Ancora un paio di domande prima di salutarlo al nostro ospite di Adecco, Claudio Soldà. Le chiedo un commento, se vuole, dottor Soldà, alle ascoltatrici che si sono candidate per professioni, per così dire, nell'ambito artistico, perché comunque abbiamo anche vocazioni di questo tipo nel nostro paese, che cosa suggerirebbe di fare? Poi le chiedo un commento anche su uno studio recente della CGA di Mestre, che offre in qualche maniera una speranza concreta a tanti italiani disoccupati o addirittura inattivi, e chi magari ha anche non un'elevatissima qualifica di studio, le professioni, diciamo, di non grado elevatissimo appunto di cui c'è bisogno. Quali sono, come dire, le richieste che intermediate presso la vostra società? No, sulle aspettative e soprattutto le passioni delle ascoltatrici che sono orientate nell'ambito artistico creativo, devo, ahimè, come dire, limitare quelle che sono le potenzialità di una risposta da parte di quei settori, con l'invito comunque a mantenere, a coltivare la passione rispetto a quello che stanno facendo, e riuscendo magari a individuare un altro ambito di applicazione per quel che riguarda la propria candidatura, come nel caso della proposta che è stata fatta dai suoi ospiti. Peraltro quello dei servizi alla persona è un settore in enorme espansione, che guarda caso in maniera quasi preponderante fa riferimento al genere femminile come forza lavoro. Mm-hmm. Sull'ambito invece della ricerca della CGA, diciamo che siamo parzialmente d'accordo, nel senso che ritroviamo in tutte le ricerche fatte dalle aziende comunque la necessità di fare riferimento, se non a diplomi o a lauree, comunque a percorsi di specializzazione, tant'è che dal panettiere al pasticcere al fornaio comunque un percorso formativo lo richiedono, su un investimento in formazione continua che oggi rispetto a 10 anni fa è possibile farlo in qualunque momento della giornata, ovunque, per gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi riscontriamo che quelle professioni sono sicuramente professioni richieste. Infatti prima facevo riferimento al settore alimentare come settore che sta comunque avendo uno sviluppo importante. Certo. E allora guardi Soldani, noi dobbiamo salutarla, mi prendo questo stimolo che lei ci ha dato, come dire, ce l'ha offerta su un piatto d'argento, andiamo a sentire l'esperienza di Giuseppe dalla provincia di Padova, perché appunto si parlava di settore alimentare. Grazie a Claudio Soldani. Sentiamo Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qui, Giuseppe. Mi dispiace che non ci sia mia moglie, che potesse raccontare lei in qualche modo la sua storia. Ma speriamo che stia lavorando. Sì, infatti, dopo 20 anni ha perso il lavoro, segretaria di direzione in una grossa multinazionale, conosce benissimo l'inglese e il tedesco e a un certo punto il suo profilo era diventato, un po' per l'età, un po' per la sua professionalità, era diventato troppo alto per trovare un qualcos'altro. È sempre stata grande appassionata di cucina. Sì. Da ragazza ha avuto anche un'esperienza prima del lavoro di impiegatizio, diciamola così, in una gastronomia, e perché no aprire una scuola di cucina. Bravo, quindi la sua dote, la sua passione. Esatto, è stata aperta a settembre, dopo un anno di progettazione di questa cosa, un investimento limitato, ma diciamo un'esperienza per lei assolutamente positiva e speriamo abbia anche una sorta di futuro. Assolutamente, una bella esperienza, Giuseppe, ha fatto bene, vero Carlo? Questo è un modo di... Questo io credo sia il modo. Io temo, con tutto il rispetto, la possibilità di reinserirsi sul lavoro da una certa età anagrafica in poi, uomini o donne che si sia, è limitatissima. Bisogna dirlo senza far finta di... si possono fare tutti i corsi di formazione e tutto, ma ritrovare il posto di lavoro, soprattutto se è un posto di lavoro da dirigente o da quadro alto, con molta esperienza... Non ci sono aziende di dimensioni tali che possono assumere figure del genere. In Italia abbiamo un numero di grandi aziende, medie aziende che è infinitamente piccolo, e quelle che c'erano la maggior parte se ne sono andate. Mm-hmm. Allora o ti reinventi il lavoro o porti la tua competenza, io insisto, ma non perché devo fare autopromozione di Back to Work, ma è questa la formula. Porta la tua competenza, hai fatto una scuola di cucina, ma sai quanti in questo momento piccoli artigiani nel settore alimentare, agroalimentare? Io ero ieri a Catania a presentare Back to Work alle imprese catanesi e c'era una ragazza laureata che si è inventata un'attività di catering, così producendo lei il materiale principale, lavorando sul bio e quant'altro. Non stiamo raccontando favole per cui tutto si risolve, però questa attitudine all'intraprendenza su aspetti anche attività, facevi la segretaria di direzione, sai l'inglese e il tedesco, questo ti servirà anche se incominci a fare la scuola di cucina, perché prendi persone dall'estero che vengono a imparare la cucina italiana in Italia. Certo. Hai capito? Allora, sì, dottoressa Gianotti, che cosa suggerisce l'esperienza della moglie di Giuseppe? Sì, volevo fare anch'io, diciamo, due commenti. Allora, uno, in prospettiva non faremo per tutta la vita lo stesso lavoro. Quindi sono finiti i tempi in cui uno ha fatto, diciamo, delle scuole superiori o un'università e poi fa, diciamo, per tutta la vita lo stesso tipo di lavoro per 20, 30, 40 anni. Già le persone della nostra generazione, come diciamo la signora che è stata ben rappresentata dal marito, ha fatto, diciamo, una prima carriera di 20 anni, ne farà un'altra di 10, un'altra di 20, eccetera. E quindi dobbiamo essere proprio pronti a questo, perché il mercato va in questa direzione anche in Italia. La seconda cosa è che un conto è la persona e un conto è il lavoro. Io sono e faccio. sono due cose diverse, quindi io non sono una segretaria di direzione, io sono una donna di 40 anni, 50 anni che vive a Padova, ha una famiglia, eccetera, eccetera, e in un periodo della mia vita faccio la segretaria di direzione. In un secondo periodo della mia vita ho messo su una scuola di cucina. In un terzo periodo della mia vita farò la nonna. Punto. Sono quella persona che fa cose diverse. Questo aspetto mi piace molto. Quindi tutti i lavori hanno una loro dignità e io non mi devo identificare con il lavoro. Questo è un qualcosa che noi ereditiamo dagli uomini, e visto che, diciamo, le donne invece in alcuni casi hanno, diciamo, un'apertura mentale maggiore e la società gli permette di farlo, dovremmo tenerlo in considerazione. Allora, c'è un ascoltatore che ci suggerisce di fare una mezz'ora di matching tra chi cerca e chi richiede lavoro. E lui ci dice, vedi, a proposito di idee, fareste un sacco di ascolti e un ottimo servizio sociale. Questa è un'idea. È vero. Adesso, nel frattempo, la pensiamo e intanto chiamateci, andiamo a sentire le notizie del nostro GR. Tra poco. Cuore e denari. Sentite, io non posso farlo adesso. E non posso nemmeno venire a Stanford con voi adesso. Sì, signor Leland, quello è il bambino che si era perso stamattina. Solo che non si è perso, è mio figlio. Ho un figlio che ha una partita di calcio fra 20 minuti. Signori, se siete intelligenti, mi vorrete tanto per la mia dedizione e le mie capacità, quanto per il fatto che adesso vi mollerò e attraverserò la città come una pazza per far capire a mio figlio che la cosa più importante è lui per me. E, signor Leland, le vere basi per licenziarmi le avrebbe se io rimanessi qui con voi. Donna in cerca di lavoro. Bisogna avere determinazione, preparazione, flessibilità, concretezza. Questi sono alcuni degli ingredienti della ricetta per trovare lavoro che stiamo scrivendo oggi insieme ai nostri ospiti e naturalmente insieme ai nostri ascoltatori, che invitiamo a intervenire all'800 24 00 24. Dalle vostre storie, dalle vostre richieste, dalle vostre esperienze troveremo modo per chiedere aiuto ai nostri esperti e per dare quindi delle indicazioni concrete, perché dopo la preparazione bisogna passare all'azione, ma bisogna, come ci raccontavano, vedere anche un altro mondo, insomma non limitarsi a cercare sempre nelle stesse cose, negli stessi luoghi, con le stesse formule. In questo senso ci vuole quella creatività di cui ci aveva parlato anche la nostra prima ascoltatrice. Abbiamo ascoltatori che ci aspettano, ma anche il nostro quizzettone. Esatto, no, due abbiamo cose. Un sacco di cose insomma. Da fare, non ci basta mai cuore denari, non si accettano telefonate di uomini che chiamano per conto delle donne, anche se ne abbiamo prese, e prenderemo Livio da Milano perché poverino aspetta lì da un po', ma poi ci sono Alessia, Valeria e Silvia. Il quizzettone di oggi vogliamo anche un pochino alto, vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori barra ascoltatrici, anzi ascoltatrici barra ascoltatori oggi, se sanno che cos'è la rivoluzione Womenomics, chissà se l'ho detta bene all'inglese, però insomma magari qualche cosa nel avete tuo sentito. Curriculum come metteresti inglese? L'inglese conoscenza? Lo sai che la mia è... No, tu buona. Ma figuriamoci. No, buona, ma lo io metterei zero. No, no, quella proprio, la diciamo, mia. Del supermercato a New York, se dovessi sostenere un colloquio di lavoro in inglese non sarei in grado. No, no, no, assolutamente. Vabbè. Lo dico, lo ammetto. Infatti, ottimo. Infatti, quello che vorrei Cristina fare... Cristina Gianotti ci sta guardando, ma noi saremo qua in Italia, facciamo altro, facciamo insomma. Altro, nel frattempo facciamo... impariamo bene l'inglese. Sì, esatto, mi ha guardata con un po' di scandalo. È vero. Ormai. Lo so, purtroppo è così. Almeno ho puntato l'inglese. Al francese perché so. Sono va benissimo, la seconda lingua ormai serve. Andiamo a Trapani da Alessia. E il quizzettone poi lo facciamo. Sì, certo, 80, no, facciamo che potete scrivercelo, va o su Facebook o al 349-238-6666, visto che il quizzettone è una cosa con la quale ci divertiamo, invece per le telefonate andiamo alle questioni serie. Andiamo, allora, ho lanciato Alessia, magari poverina. Sì, Alessia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io volevo raccontarvi brevemente la mia esperienza. Io ho 28 anni, sono molto giovane, mi sono laureata nei giusti tempi, sono una laureata in lettere, sì. Quindi mi sono laureata, ecco, nel 2011 e mi sono subito messa alla ricerca del primo impiego, primo impiego che ancora adesso non c'è stato, ha stentato ad arrivare e non c'è. Quindi sono circa 3 anni che io sono alla ricerca, nel frattempo ho cercato di curare le mie passioni, certo. Ho fatto uno stage che è durato poco tempo, insomma mi sono impegnata in piccole cose che però non sono delle occupazioni vere e proprie e che quindi poi ai fini del mio curriculum hanno aggiunto insomma non moltissimo, quindi la difficoltà anche nel momento del colloquio a vendere qualcosa di me che sia realmente pratico, spendibile, ecco, vendibile, come dicevo. Alessia, le facciamo un colloquio al volo, aspetti lì, sì. Anzi aspetta, perché ha 28 anni, magari sia praticamente potrebbe essere la figlia di noi tutti qua, sì. Carlo Bassi. Ma intanto una domanda, quando ha pensato di fare lettere si era già posta prima quale avrebbe potuto essere lo sbocco professionale? Perché io me lo bisogna sono smetterla posta di pensare che uno faccia semplicemente senza avere questa continuità. Assolutamente. No, interrompo poi su un'altra cosa. Poi io suggerirei, ma questo come consiglio mi permetto di dire non solo da una persona che si occupa di queste tematiche, ma anche da genitore. Bene la laurea in lettere, ma non è detto che debba essere strettamente conseguente l'attività professionale che si svolge successivamente collegata. La laurea in lettere ti dà sicuramente una posizione di cultura, una forma mentis, così come che sì, straordinaria, dopodiché uno può anche decidere che apre un vivaio, voglio dire. Non è che uno che ha la laurea in lettere deve trovare necessariamente nell'ambito della propria laurea, questo vorrei suggerire come assolutamente prima. Assolutamente no, però io sono convinta del fatto che comunque la laurea in lettere sia sottovalutata in generale dalle aziende, ma in generale insomma nel mondo del lavoro. Ma non possiamo cambiare il mondo. Credo che sia una laurea spendibile, molto spendibile. Ecco, cerchiamo di spenderla bene, Alessia, perché se noi ci fermiamo a dire peccato le aziende eccetera, però cerchiamo di farla rendere. E intanto volevo fare una domanda a Carlo. Un profilo come Alessia, e quindi primo impiego con poca esperienza, ecco, può trovare una sorta di praticantato a Back to Work, cioè partecipare, quindi non cerca, non entrano. Se ci persone. Si orienta come attitudine iniziale, già come scelta, non necessariamente nel posto di lavoro di una grande azienda, se si accetta l'idea che si possa andare a fare un lavoro anche proprio banale, non sto parlando di stage come si utilizza oggi, ma proprio poter fare un lavoro in cui si impara un mestiere e quindi si ha l'attitudine e la disponibilità, poi che si abbia la laurea o non la laurea, perdonatemi, lo dico, è un dato importante ma non necessario per intraprendere un'attività. Però si può venire a Back to Work anche senza nessuna esperienza precedente, assolutamente. La dottoressa Gianotti ne ha qualche suggerimento per la nostra 28enne laureata in lettere di Trapani? Allora, superati i commenti sulla laurea in lettere, sì, ormai andiamo oltre, ecco. Allora, operativa però dottoressa Gianotti, concreta per Alessia, che poi ci farà sapere. Allora, io verificherei che canali utilizza per mettersi in contatto con il mercato, nel senso che il mercato del lavoro non sono solo gli annunci, questo diciamo lo vorrei dire chiaramente, nel senso che sono uno dei canali, ma poi ci sono le società di ricerca e selezione, ci sono la rete di conoscenti. Il mondo è sempre andato avanti fino a 50 anni fa senza gli annunci di lavoro e tutti lavoravano, quindi uno diciamo può guardare diciamo nel proprio paese, nella propria città, nella propria regione, parlare diciamo con le persone che possono essere sia persone che potenzialmente potranno essere il nostro datore di lavoro, sia semplicemente delle persone che possono diciamo avere delle idee o darci quindi dei suggerimenti, parlare con conoscenti in contatto con persone. Io su questo ci credo un po' poco, sui conoscenti, perché c'è un po' la sensazione che mandi il curriculum e poi ti dicono lo farò girare, sento e poi mi sembra un po' per carità. Non intendo questo, nel senso che effettivamente anch'io ricevo dei curriculum, ma se la persona non mi dice diciamo che cosa sta cercando e non ci confrontiamo proprio personalmente o al telefono o di persona e mettiamo giù un minimo di azioni concrete, non andiamo da nessuna parte. Alessia è scappata nel frattempo, Alessia, perché l'avete un po' spaventata. Speriamo forse. Di no, ma magari l'abbiamo temprata un po'. Allora, non solo annunci, bisogna rete di conoscenze per raccogliere diciamo contatti piuttosto che suggerimenti. considerare delle aziende in cui uno vorrebbe andare a lavorare e provare a proporsi, non semplicemente mandando il curriculum, ma magari, diciamo, scrivendo una lettera motivazionale, allargandosi un pochino e utilizzando un atteggiamento, io dico, all'anglosassone, quindi, diciamo, mi piacerebbe lavorare per voi perché siete un'azienda, io potrei fare questo. Quindi essere, diciamo, anche propositive, certo, magari, diciamo, partendo anche dal basso. Mi direbbe, posso? Certo, Carlo, come no? Soprattutto quando ci si rivolge a una tipologia di aziende, quelle medio piccole, dimostrare di aver capito cosa fa quell'impresa e scrivere un curriculum dicendo io potrei in quella cosa esservi utile. Quello che manca, cercare un lavoro è un lavoro, ma è un lavoro che va fatto come lo farebbe un impiegato o un'azienda, analiticamente, studiando. Ci mandano dei curriculum all'azienda solo perché in materie plastiche, ma poi se fa materie plastiche facendo piatti da cucina o tubi per la cosa, sono due cose diverse. Uno, piatti da cucina, può metterci dentro la creatività del marketing, della strategia, e se fa invece l'ingegnere nelle... È questo che manca, è una ricerca del lavoro che sia analitica, mirata, e aggiungo, al di fuori anche dal vado a lavorare solo se l'azienda è grande, se si chiama Enel, Terna, Barilla e così via. Nel nostro territorio esistono dei campioni in nicchie che sono sconosciuti, ma bisogna andarle a studiare, non si può pretendere che ti vengano a cercare. Allora, no, sì, abbiamo ancora Livio. No, poverino, facciamo Livio, buongiorno, ci scusi. Buongiorno. L'abbiamo un po' malato. È un piacere sentirvi in ogni caso. Grazie, Livio. Io ho chiamato perché volevo fare una piccolissima considerazione e un altro piccolissimo appunto, perché vi seguo spesso, così come seguo altre trasmissioni in altre radio, e molte volte allora Livio, salutiamoci, se non siamo le uniche, è tutto finito tra è noi. Tutto finito, era nato un amore ma lo tronchiamo subito. Accidenti, però dai, pagatemi per l'attesa, per no, no, va bene, allora Livio, dai, l'ha saputo girare bene subito, hai visto, sì, questo è un candidato ideale ovunque, in qualunque posto si presenti. Ci dica, no, io ho notato che quando si parla di questi argomenti che sono importantissimi, ci sono due piccoli buchi neri di cui non si parla mai o magari si parla poco e male, che sono tutte quelle persone giovani che non hanno una grossa, diciamo, come dire, non hanno studi, non hanno, sì, competenze, quindi sono quei ragazzi che magari hanno smesso gli studi a 18 anni, 19 ci anni. Ci sono i NEET, esatto, c'è una definizione molto precisa di questa popolazione, Livio, no? Sono i not employment, eccetera, eccetera. Quindi? Ma ne conosce qualcuno interessato in questo senso o è un commento in generale? No, è un commento in generale che parte dall'esperienza di mia figlia. Mia figlia ha 20 anni, ha terminato gli studi, non stiamo qui a dire, è troppo lungo da spiegare, ha 19 anni, sta cercando lavoro e per dire di questa tipologia di persone, che sono una fetta non piccola, diciamo, nel mondo del lavoro, non si parla mai e non si danno indicazioni su cosa possono fare. Se ne parla come c'è un piano molto importante che è predisposto dal Ministero del Welfare, che è la garanzia sia giovani, a maggio dovrebbe diventare operativo, e però è molto complicato mettere nel mercato del lavoro appunto queste figure, non so neanche come possiamo chiamarle, dottoressa Giannotti. No, vabbè, ormai diciamo però, si usa questo acronimo, sì, NEET. In effetti devo riconoscere che diciamo la problematica relativa, diciamo, a queste persone non è, diciamo, banalissima. Quindi io magari, diciamo, dedicherei diciamo magari una trasmissione a parte, nel senso che dare dei giovani suggerimenti così diciamo, e degli spunti. Allora, diciamo che possiamo questo suggerimento, sì, Livio, tenere sotto controllo l'evoluzione della garanzia giovani. Da maggio sarà possibile iscriversi ai centri per l'impiego secondo i criteri appunto di questo progetto, per cui Livio si documenti al meglio su come funzionerà e andare al centro dell'impiego più vicino a casa sua. Sì, Carlo, ne aggiungo una da genitore. Anche predisporre che il figlio sia disposto veramente a fare qualsiasi cosa pur di iniziare a lavorare, perché questo secondo me delle volte, non per fare facile retorica o così, perché poi il posto di lavoro è qualcosa che è anche quella formazione, entri in un posto, fai un primo passaggio e impari le prime cose e da lì ti costruisci una carriera, ma non bisogna pensare che ci siano posti già che aspettano te, sì. Sei tu che te lo devi andare a costruire in qualche modo. Sto parlando anche proprio dalla base, quindi da pratica... perché anche in un curriculum questa esperienza, che può essere ho lavorato 6 mesi in una gelateria, sì, ho fatto il commesso, il lavoro stagionale, alla fine rende più di quello che magari fa tanti corsi, tante ricerche, ok, insomma, da tenandi, come si dice in piemontese, come no? Si dice? Da tenandi. Da tenandi. La traduzione è un po', vedi che te lo sento, date una mossa. Brava, ti accompagna da tenandi. Valeria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ci dica. Io vi ho chiamato perché nel sentire la dottoressa parlare mi sono rivista un po' negli ultimi 2 anni, nel senso che io dopo 14 anni di esperienza d'azienda nelle telecomunicazioni di tipo manageriale ho fatto il grande salto, forse proprio perché avevo bisogno di dimostrare qualcosa a me stessa. E il grande salto un po' nel buio, nel senso che avevo soltanto la mia grossa esperienza e un entusiasmo che non si è abbassato nemmeno di nulla negli ultimi 2 anni. Mi sono trovata le opportunità come state dicendo voi, e cioè mandando email scritte di getto su quello che sentivo di poter fare per l'interlocutore che avevo trovato, e sono attualmente alla ricerca di altre opportunità, e onestamente penso che l'opportunità non è soltanto la mia, ma è anche per coloro che decideranno di affidarmi un progetto piuttosto che l'opportunità di andare avanti insieme a loro. L'aiuto che vi chiedo quindi è proprio questo: come faccio per trovarle queste nicchie, questi imprenditori, queste persone che hanno voglia di scommettere su una risorsa che ha scoperto negli ultimi 2 anni, anche oltre la capacità manageriale, una grossa capacità commerciale che probabilmente è performante anche perché strutturata con l'approccio mentale di un manager che ha vissuto un'azienda strutturata. Grazie Valeria. Andare adesso senza scomodare Back to Work 24, la Confindustria del posto per esempio può essere un utile suggerimento nell'immediato? Sì, anche se lo dico con massimo rispetto per le associazioni di categoria, poi lì c'è un aspetto di burocrazia che tende a far calare un po', scoraggiare. Io insisto su un aspetto: oggi capire se attorno alla tua provincia o nelle province limitrofe, o parliamoci chiaro, anche in altre regioni, sì, ci siano aziende che fanno ieri sentivo raccontare che hanno messo su una nuova azienda riunendo tutti i produttori, scusate se, di maialino nero sopra le Ebrodine in Sicilia per lanciarle all'estero. Probabilmente qualcuno con esperienza internazionale a questi signori servirebbe. Adesso sto esagerando, ma è per far capire che come noi cerchiamo, non cerchiamo l'imprenditore che vorrebbe noi, cerchiamo noi l'azienda a cui possiamo offrire qualche cosa. Dottoressa Giannotti? Allora, diciamo 2 flash. Uno, mi sembra di capire che la signora Valeria stia già lavorando, quindi si tratta di entrare nell'ottica di dire, diciamo, colgo un'opportunità per magari, diciamo, 2 giorni alla settimana e poi, diciamo, ne colgo un'altra che ovviamente non sia, diciamo, in concorrenza per altri, diciamo, giorni alla settimana. E questa è già, diciamo, un'apertura mentale verso un modello che probabilmente ci accompagnerà nei prossimi anni. Per quanto riguarda, diciamo, il fatto di scoprire delle realtà, allora, diciamo, internet piuttosto che la Guida Monaci, piuttosto che il Compass, piuttosto che, diciamo, delle fiere. Adesso io non mi ricordo se la dottoressa ha detto dove lavora. Vabbè, Roma, Milano, voglio dire, ci sono una serie di fiere che vengono fatte a seconda, diciamo, del settore a cui uno ci si rivolge, in cui ci sono sia i grossi nomi che fanno da sponsor, sia vengono citate anche delle realtà più piccole. Allora, ricordiamo prima di salutarci, certo, che potete sempre scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica Cuore Denari, e i nostri esperti magari possono darci anche una mano, per cui gli sportelli di Cuore Denari sono sempre aperti, ma ricordiamo anche Cuore Denari Vitali. Esattamente, Debra. Abbiamo dato ieri direttamente dalla voce di Andrea Vitali gli incipit di questa settimana. Per completare il racconto di Cuore dovete inserire la parola... sedia. Ecco, io invece stavo dicendo quella di Denari, che è elettrodomestico. Elettrodomestico. Ecco. Per cui ricordatevi, avete tempo fino a mezzanotte di martedì prossimo per completare i racconti. Andate sul sito di Radio 24 tra. E per il quizzone vi ricordiamo Facebook e al 349-238-6666 non è ancora arrivato nulla e quindi faremo arrivare un regalo a chi manderà la risposta esatta sul nostro profilo Facebook. Cuore e denari.